1, 2, 3, prova. Hola, hola, prova, prova, 1, 2, 3, prova. Hola, hola, attento, Manuele. Canale 23, 1, 2, 3, prova, prova radio. 1, 2, 3, prova. Hola, hola. Una grossa tassa, quindi forse era leggermente più a rischio rispetto ad altri, no? Ma bisogna fare in modo che il suo medico, in base per il quale paghiamo tutti quanti le tasse, abbia la possibilità di trasporre subito una persona che non ha un supermercato. No, tutto quello che ho detto è quello che era giusto, ti ringrazio. Ciao Barbara. Noi siamo solo qui per avere una spiegazione logica di perché non è stato attivato in tempo il protocollo anticovid. L'uomo che stava male stava chiedendo aiuto. E successo quando è stato dato la forza falsi, non vogliamo incontrare nessuno. Dobbiamo incontrare che possa essere a casa, con serenità e serenità. Grazie davvero. C'è una bella notizia, partiamo così. Guarda, zero, attenzione. Allora, quel corpo prendo le palme, proprio le carte, dove è ricordato con la responsabile dei servizi, che chiamo, tipo lo danno da 27 giorni, è in terapia intensiva. Ci sono delle Italia. Ciao Bacchisio. Ciao Giulio, buonasera. E allora, come va? Gai, un giorno peggio dell'altro. Ehi, vabbè, un giorno peggio dell'altro, interessante andare avanti, io Bacchi. Poi sopportiamo, già abbiamo le spalle larghe. Ehi, problemi da risolvere, ci sono giù. Ognuno di noi ne ha problemi, io Bacchi, ognuno di noi. Sì, a tutti i livelli, non solamente a un livello, soprattutto quello più importante è sempre la salute, poi piano piano cerchiamo di tirare avanti, cosa ci vuoi fare? Un giorno meglio e un giorno meno meglio, allora tiriamo avanti lo stesso. E cosa vuoi fare? Tiriamo a campare, si diceva una volta. Tiriamo a campare. Ma se andiamo a questo passo cambiamo poco. Quando arriva l'ora purtroppo non lo sappiamo. Non lo sappiamo, ma chi? Non ci possiamo fare niente. Quando arriva e boh. È una cosa, ti dico, non ci possiamo nemmeno rifiutare. non abbiamo la facoltà e nemmeno il diritto soprattutto di rifiutarci, perché lì è già deciso. È deciso, infatti io ho già fatto il biglietto, andata solo però, il ritorno non nemmeno sapere. Lo so, purtroppo è così. Il biglietto è solo andata, quando già è vero. E d'altronde, ma c'è qualcuno che poi è convinto che da quella parte poi c'è sempre vita. Io dico di no. Una volta che sei morto, il buco non se ne parla più. Ma è molto mito. Gli anziani dicevano che c'è la capacità di esistere ancora. Ma io non vedo proprio, sono scelti che sono cose così. La mia nonna è zia. Allora, si dice che l'uomo sia nato da un granello di sabbia, no? A un certo punto si diventa un pizzichino di polvere, no? Di manco di sabbia, di piumalo. Quante cose si dicevano e si dicono ancora oggi, però d'altronde la vita è così, la vita è così. È guai tutto sommato se dovessimo poco poco ragionare in maniera obiettiva, guai se non fosse così. Tu immaginati in quante migliaia e migliaia di anni che esiste l'umanità, quante migliaia, di quanti miliardi di persone ci sarebbero state nel mondo. Sarebbe successo che ci sarebbero dovuti ammazzare l'uno con l'altro per mangiare, perché tutto quello che si produce non sarebbe bastato per poter sopravvivere. Te ne rendi conto? Altro che campagna redda, una nazione ci vuole per ogni persona per poter sopravvivere. Non sopravvivi neanche perché non puoi piantare. Quando c'è tanta gente, la roba viene calpestata, manco nasci. Se non hai i campi di piuvolo o d'aria, a chi leva, leva il risultato non ce l'ha. Però altra roba non può piantare. A chi con i trapianti sono migliaia e migliaia, milioni di persone, non passa neanche la chicciano. Infatti. E cosa vuoi fare? D'altronde così. E vabbè, comunque, sia vesane. Finta che vi speriamo andare da primio, bacchino. Io la devo pensare così, perché intanto affliggersi non mi sembra che sia proprio il caso. Lo so, chissà male, naturalmente non è certo bello, però purtroppo la vita è così. Una dice, vabbè, il giorno dopo magari un po' meno bene, però poi dopo due giorni magari rimaniamo, siamo di nuovo meglio ancora, e così via, e tanto diremo a campà, finché c'è vita e c'è speranza, no? Sì, c'è vita e c'è speranza, è così proprio, la speranza poco a poco si va al lavoro, invece di speranza viene Maria Antonietta, poi allora, vediamo se c'è Marino, ci sei. Ma Marino l'ho sentito un attimo poco fa, cioè non l'ho sentito, stavo ascoltando il PMR e l'ho sentito che era lì, per cui adesso non lo so se ha l'ascolto qua, ma in PMR non c'è nessuno nemmeno in questo momento, per cui hanno chiuso, e beh, diciamo che la frequenza è andata in Aramara, in Udutto o Bacchì. Quando mi viene in mente di quando abbiamo iniziato, che c'erano migliaia di persone al baracchino, oggi siamo i quattro iatti, e poi c'è sempre qualcuno che fa l'imbecille, che di tanto in tanto cerca di fare gli spetti e mette una portante. Ma cosa vuoi, va, pazienza, lasciamoli fare, dai, pro le faccia. E lasciamo entrare, tanto che ne dice. Ma la frequenza è sempre carente, sempre, ogni giorno c'è sempre di meno, oppure entrano le rompipalle e si esiste ancora. Quelli non mancheranno mai, come ti dici, Brufibio, la donna degli imbecilli è sempre incinta, per cui ne muori uno e ne sfornano subito un altro. Allora, a questo punto, no, non c'è rimedio, non c'è rimedio. Ma mai Zannuttiani, cosa vuoi che ti dica? Per me va bene lo stesso. Io i miei anni di radio me li sono fatti, tutti li si è fatti lo stesso. tutti quelli che sono rimasti adesso in frequenza, se li hanno fatti anche loro gli anni di frequenza, per cui ci possiamo anche considerare fortunati, cioè fortunati, soddisfatti, non fortunati, soddisfatti. Poi se qualcuno che ancora non è soddisfatto, che continui, e io le auguro che possa incontrare sempre persone in frequenza per poter dialogare. Cosa vuoi che ti dica Bacchì? Daremo di fa, si vuol dire, se no fate di biglio. Ma in pochi anni hai giocato, dunque allora lasciamo parlare, se li vuole qua, ma penso non ci giuri, non come abbiamo noi, e ci siamo anni e anni e anni, e che è sempre, quattro, cinque, ma ne ho nessuno, perché ci ha venduto tutto. Infatti è così, è così. E cosa vuoi fare? Purtroppo la gente, non tutti siamo precisi, non tutti siamo bravi, non tutti siamo buoni, buro. Se che vede bene che a un certo punto lasciamo andare la barca come va, intanto noi non ce la possiamo cambiare. Allora, tu quanti anni ci sei frequenta, Bacchì? Una marea di anni, te lo conto, hai messo, scommetto. Ma io dico ci sono 74, poi non so quanti anni sono. Sono solo 46 anni e mezzo, sono in Macassaio. Io da 72 che facevo rubilata insieme a qualcuno buonanima che allora, che adesso non c'è più purtroppo, però eravamo pilati allora. Nel 74 poi ci siamo messi in inquadratura perfetta. E mi ricordo chi mi aveva dato il modulo per fare la cosiddetta concessione di allora, era la buonanima di Macallen. Me lo ricordo come se fosse oggi, che l'avevamo incontrato un giorno, e gli avevo detto come devo fare per fare, perché io ero agli inizi, non sapevo ancora come funzionava la questione, e lui mi aveva dato questo pezzo di carta scritto, mi ha detto te fai una domanda come questa, trascriviti questa e la spedisci a questo indirizzo. E così è stato, e dal giorno è incominciata l'avventura regolare. Prima eravamo irregolari, dallo 72 allo 74 irregolari. E poi ci siamo messi in riga. La concessione l'avevano data nel 93, la legge, però poi è entrata in vigore nel 74. Ecco, ci siamo ancora qua. Vai Bacchì. No, per essere pirata c'ero da 62, 63, con la Bonanno di Begagni Nomura, che era l'amatore lui, io frequentavo la figlia, frequentavo casa sua. Mi diceva, io Bacchì mi sono fritta a scopare i pirati. Ecco, là c'erano 5-6 cipitù, la scopavamo quelle lì. Un bel giorno mi trova per braccia, io comprai già del baracchino così a costa in casa d'Uglia, ha detto prendiamo il naso di là, no, ci faceva spendere poco, andiamo da un amico. E siamo andati da Fusaro in via Tempio, anche via Armando Diaz, e ho preso un faccio 123A, e insieme al faccio mi ha regalato l'antenna per la macchina, una arancione, con la carica da dentro, non mi ricordo cosa di Martella. E dal giorno, e poi l'antenna per caso me l'ha fatta Beniamino, me l'ha fatto un dipolo ed era in soffitta, nascosto dentro la soffitta. Sì, beh, allora il Pace 123 era uno dei primissimi, io ce l'ho, tra l'altro me l'aveva anche regalato un amico, me l'ha regalato e ce l'ho ancora, e quello me lo tengo perché è stato un regalo, per cui ce l'ho ancora e funziona bene, era grande e ha fatto la gavetta quel baracchino lì, ha fatto la gavetta prima con lui e adesso ce l'ho io, anche se non è che lo uso molto, però di tanto in tanto lo tiro fuori e lo metto in funzione una decina di minuti e dopo magari lo ritiro di nuovo. Però ce l'ho, cioè è un baracchino che c'è ancora in circolazione e io ce l'ho, visto e considerato che questo amico me l'ha regalato. Va bene. No, io il primo che ho avuto era un Pony 6 canali, era, e com'è stato, oh, Bacchì? È stato in questo modo. Un bel giorno viene mio cognato, che era allora un ragazzino, che avrà avuto 14 anni, una cosa del genere, 14-15 anni in quel periodo, insieme ad un amico, e me ne è venuto con questo baracchinetto da sei canali, e mi fa: oh, Giulio, io me ne è venuto in bottega, allora è venuto, mi occorre due casse per mettere l'altoparlante, perché andiamo nelle cantine a ballare e non abbiamo le casse, non abbiamo, vabbè, e allora, però soldi non ne abbiamo. Quando sento uno ha fatto lui, ti vogliamo proporre questo, mi tiriamo questo e ci fai due casse, ci fai l'altoparlante, te li diamo noi, beh, è chiaro, l'ugrillo me li dai tu. E così è stato, vabbè, d'accordo, venite, gli ho detto, venite fra un paio di giorni e le casse sono pronte, portami l'altoparlante e le casse saranno pronte. E lui mi ha lasciato questo baracchino sei canali, Puni, e mi ricordo benissimo, come se fosse oggi, e andava benissimo. E ho già giovato, ho subito comprato l'antenna, l'ho piazzata a casa, e da allora adesso sono ancora in aria, tutto lì, ho Bacchì. A me mi manca qualcosa del fuori. Il microfono, non so che l'abbia prestato, ma non c'ho il microfono, c'ho il fuori, bello, lucido, però mi manca un cavallo. Vabbè, con lui era il microfono con parlascolta, parlavi e ascoltavi dal microfono, o Bacchì. Quello che avevo io era così, poi non lo so se anche il tuo è così. Ci vuole il microfono, parlavi e ascoltavi, e non si trovano, bisogna guardare su internet, si trova. Lo voglio mettere in strada a farlo funzionare, quasi ce li ho tutti. C'è i 12, ce ne sono quasi, però ne ho qualche numero così buttato in casa. Ok, beh, sicuramente qualcuno ce l'avrà, non lo so. E poi la prima persona che appunto anche lui era al baracchino, che ho sentito, è stato Antonello Norton. Ti ricorderai Antonello, il frigorista, amico fratello di Costanzo Orazero, che ti ricorderai ancora, perché sono nomi notissimi della frequenza. Poi no, no, Pazzona, no, i frigoristi Pazzona, i fratelli Pazzona. Ecco, la prima persona che era lui, un ragazzino allora, cosa avrà avuto? Avrà avuto anche lui una quindicina di anni, non di più. Mi ricordo ai giardini su del Monte Rosello, che poi non c'erano i giardini, ma beh sì, eravamo in quella zona, perché loro abitavano lì. Io sono passato in macchina, mi hanno sentito, mi ha detto: aspetta, fermati che abito qua, che sto uscendo. Ed è stato con questo ragazzo, Antonello Norto, cioè si chiama Antonello Pazzona, fratello di Costanzo Pazzona, frigoristi tutti e due. Te lo ricordi? Allora ti dico che più avanti di casa, a 50 metri da qua, c'erano i magazzini, fratelli Pazzona, ed era il padre, preparava frigoriferi e questa roba, diciamo così, refrigerante. Erano piccoli, erano ragazzi tutti 14-15 anni, e venivano ad aiutare il padre la sera quando uscivano dalla scuola. Però la notte parlavano al baracchino. Dunque li conosco da quando sono nati quei ragazzini. Sì, beh certo, e poi naturalmente con gli anni, poi ho conosciuto anche il fratello Costanzo, poi ho conosciuto a Bruno ho conosciuto, poi il fratello anche, Aldo, Perseo, e così via. Allora, poi nel frattempo, allo stesso momento, la buon'anima di Tore alla Verde, che è cognato, che era cognato appunto di Bruno e di Aldo, e così via. E poi la cosa ha continuato alla grande. Ne ho conosciuto un bel po' di persone, dai, tutto lì. Sono andato d'accordo sempre con tutti, ho avuto qualche rapporto d'amicizia, ma non diretta, nel senso che uscivamo insieme, no, io non sono mai uscito insieme con un TB, assolutamente, ma venivano continuamente a trovarmi in falegnameria, venivano e dunque li ho conosciuti, anzi erano loro che venivano a farsi conoscere più che altro, perché perché io ero al lavoro, loro venivano, sapevano dove trovarmi e così è stato. Ne ho conosciuto tantissimi, tanti mi sono piaciuti, altri non mi sono piaciuti, ma li ho trattati bene ugualmente, perché è così che ci si comporta, ma chi vai? C'è qualcuno che metteva la portante e parlava avanti? No, nessuna portante, mi è scappata la portante a me, buonasera. Buonasera Emanuele, voi picchiato. No, hai sbagliato nome. Ciao Bacchisio, ciao Giulia, avanti. Ok, ciao Luca. Sì, no, non è un problema, figurati Luca. così è continuata poi l'avventura per tutti questi anni, ma che cosa ci vuoi fare? Ma comunque, ormai ci siamo detti tutto in tutti questi anni più volte, perciò sarà anche per quello che ci siamo stancati, o meglio che tanta gente si è stancata e si è allontanata. Presenza. Avanti Bacchi. Salutiamo Luca, buona serata. Scusa se ti ho chiamato con un altro nome. Avanti Luca. Sì, dai, sono entrato così, dai. Ero qua in ascolta. Salutami, stanno a cenare. Magari ci sentiamo dopo se ci siete. Aspetta, non andare a cenare, ceno io per la parte tua. No, che ho fame. Io sono giovane, devo nutrirmi ancora. La bella mela, dai, a dopo allora Luca, buona cena. Avanti Giulio. Ok, ciao Luca, allora buona cena, allora hai ragione, sei giovane, non hai detto una bugia, hai detto la verità, sei giovane, via da te, che vai 30 anni più poco di me, anzi 32, 33 anni meno di me, beato te. Vabbè, comunque io ho mangiato più di te, fino a questo momento ho mangiato più di te, per cui cosa dici Bacchi? Che ancora lui deve crescere tantissimi anni per mangiare tutto quello che mi ho mangiato io, vero Bacchi? Senz'altro, il conto viene giusto, immaginati i panini, parliamo di tutto tanto, ce ne vuole, all'inizio, non la bene mela. E così la vita giù, lo sai, sto provando un anno, se mi arrivi da questo punto. Ecco, io mi auguro che continuerò ancora a trovare. Speriamo, cosa ci vuoi fare? Speriamo che succeda, tanta gente ha finito da tempo di rotolare, l'ultimo rotolamento era di un amico che tu hai sicuramente conosciuto e questo risale all'incirca un anno e mezzo o due anni fa, anche se ormai a Sassari non c'era più, ci mancava roba di 35 anni o forse anche 40, anzi senza forse, era ad Alessandria ed era diventato vice commissario della polizia italiana e si chiama Angelo Mello, al nome di Baracchino Shadow 2, te lo ricorderai sicuramente Bacchi. Era giovane, poveretto, purtroppo si era malato ed è morto. Me lo ricordo questo signore qua. Vediamo chi è che vuole entrare, avanti. Ho detto buonasera, dipende sempre da quello che uno mangia, rivolta al discorso di poco fa. Se uno mangia molto riesce a raggiungerti subito giù. Sai cos'è? Già, io ho mangiato tutto quello che Luca si mangia nel doppio della sua vita, visto e considerato tutti gli anni che le vinco di età. Per cui a questo punto diciamo che stiamo arrivando alla fine della mangiatoia, mettiamola in questo modo, no? Perché quando si arriva ad una certa età poi si sa, smetti anche di mangiare, è così Gianni. Allora, papà diceva sempre, se non inizia a morte, se la prima morte, se c'è tanto in morte, potrei anche se ti dice di lui. Io, giovani, vecchi, università, tutte queste che conosceva, tutti molti dicendo di sì. E lasciate che andavano a battagliare. Gianni, sei uscito tutto pieno di fischi. Sei abbassata moltissimo la radio e hai fischiato dall'inizio sino alla fine. Metti a posto, dai. Intanto ti mando avanti Bacchisio per salutarti. Avanti Bacchi. Ciao Gianni, buona serata. Fischi, il tipo ce l'ha già. Di tutto. Guarda adesso, ancora fischiato. 1, 2, 3, prova. Adesso no. Adesso sei tu già. No, perché secondo me ho fischiato. mai, perché ha incominciato di nuovo a fischiettare, guarda, è abbassato la radio, mai dire mai, a volte, vabbè, hai fatto solo un passaggio buono, poi l'altro che hai fatto successivo già, di nuovo musica sinfonica ad alta prestazione, e cioè fischi in abbondanza. Va bene, vediamo se ti sei ripreso, avanti già. No, sta sistemando. Avanti, Bacchi. Stasera Gianni ha voglia di fischiare. Diventare un cardellino deve diventare, per quello è. Infatti, no, ma da un po' di giorni ha un microfono che sta facendo, lo sta facendo disperare. Sembrava che l'avesse sistemato e invece, quanto sembra, penso che sia sempre quel microfono e non lo so. Evidentemente ha qualche problema che non è riuscito ad eliminare definitivamente. Speriamo bene. Vediamo Gianni se è riuscito. Gianni? Prova adesso, guarda come va. Sì, adesso ci sei, dai. Adesso ci sei già. Un po' colposa di modulazione, però ci sei. Ci sei, ci sei, non c'è problema. Adesso la musica l'hai abbandonata. Avanti, Bacchi. Sì, io non la sto andando bene. Bene, bene, signore. Come ho fatto io. Mi ha dato i piedi con il microfono, ha aggiustato una cosa e si faceva un'altra. Ieri l'ho presa, io in soffitta, a dormire. Lascio lì qualche pezzo di ricambio, mi servirà. No, ma questo qui è un altro, questo è l'altro microfono, questo è quello che l'altro giorno stava rispettando. Oh. Sì, già, ma è cupo questo microfono, adesso già sta uscendo, però è cupo, è molto cupo, non so che microfono stai usando, se non lo vuoi dire, non lo dire, non è importante perché io lo sappia, però stai uscendo cupo di modulazione, insomma, non è la tua bella voce scintillante che hai sempre, quella proprio a mille una notte. Questa invece è corposa, cupa e ogni tanto fischiettante. Avanti, Bacchi. Non è di Gianni, non c'è stasera, è uscito e cerca di migliorare un po' già, se no siamo a terra a terra. Comincio una stasera, a me la terra se mantengo. E io ci metto un po' a migliorare, mi cambio il microfono e migliora. Si è andato un po' di fischi, ma è bella modulazione. E adesso hai aumentato il volume della radio, però hai cominciato di nuovo a fischiare, vabbè dai, oggi sei tutto canarino, sì, va bene che tu hai la passione per gli animali, cioè nel senso anche soprattutto degli uccellini eccetera, evidentemente ti stanno condizionando gli uccellini o già con questo fischietto. Oh Gianni, cosa mi dici? Non so che dire, stavo andando bene, ci va ieri un modulato tranquillo e adesso c'è. Sto guardando anche le stazioni d'aria, non è ho, non dipende manco da quello, adesso vediamo un pochettino che cosa può essere. Stai andando male già, c'era il fischio lo stesso, solo che quando modulavi il fischio lo coprivi, perché se stavi uscendo con una radio ripetuta abbastanza, dunque dovessi abbassare la ripetizione e dovessi abbassare e ripeto, il fischio c'era ancora, io l'ho sentito ugualmente. Avanti Bacchi. Anche forte il fischio stavolta. Bene, io Giulio devo lasciare perché è arrivata l'ora del merendero per me. A quest'ora si prende le pilloline. Bene, Giulio, grazie della compagnia del quattro chiacchiere che abbiamo fatto. A domani, se concilia, ci sentiamo ancora. Ciao Gianni, buona serata anche per te. A domani, se tutto va bene, ce la chiacchieriamo. Bene, Bacchi ascolta fino a Lino e passa in QRT. Vai Giulio. Ok, ciao Bacchi. Sono io che ringrazio te per le quattro chiacchiere. Alle prossime Bacchi, grazie ancora per la chiacchierata, dai, buona cena, buon riposo stanotte e domani che sia molto meglio di oggi, mi auguro che sia così. Avanti Gianni per il finalino. Ciao Bacchi, ci sentiamo, buona serata anche a te, buona carica, buona Ok, sì, sei molto alto adesso del radio già, ma comunque va bene lo stesso, per me va bene ugualmente, non c'è problema. Sì, vabbè, anch'io non è che tarderò molto, sono già le 8:10, per cui siamo lì. Anzi, devo dire la verità che in questa ultima settimana stiamo anche anticipando di qualche minuto per quanto riguarda la cena. Poi vediamo un po' come la pensa oggi mia moglie, se è in ritardo, se è in anticipo, non lo so. Sto aspettando il suo squillo di telefono, perché a chiamarmi non mi può chiamare perché ho la porta chiusa, o meglio mi può chiamare ma non la sentirei. Però se mi squillo il telefono, allora capisco che devo scendere. Vabbè, dai, comunque va bene. Vabbè, è andato bene, l'ultima modulazione che hai fatto Gianni è andata bene, al di fuori del fatto che era molto alto il microfono, vai. No, ce l'ha con te, col microfono ce l'ha con te già, perché sì, hai detto, boh, non so cosa sia, non so cosa che può essere, per dire no, e poi hai cominciato, subito, non ti vuole abbandonare, quella musichetta non ti vuole abbandonare già, e vabbè dai, comunque, andavano a te se non c'è problema. E gli arrivati saluto che sono andato a portare giù il cane, adesso come fa? Non so, mi sembra di aver capito che vuoi andare a portare il cane. Vabbè, prova a far modulare il cane, può darsi che il microfono si metta a posto. E cosa vuoi ti dico? Vabbè dai, già, se devi chiudere porta pure il cane, che anche lui ha diritto di uscire a fare le sue cose. Perciò ci sentiamo domani eventualmente, dai. Ciao Gianni, grazie allora della chiacchieratina. Alle prossime, ciao già, ascolto il finale e dopo chiudo e scendo le scale così, piano piano. E aiutate, sentiamo, buona serata, buona carica quando va. Ok, ciao già, a domani, ciao.